voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Giuseppe Vicenzi, oltre 100 anni di dolcezza nel nome di Nonna Matilde, di Anna Marino. L'inizio della giornata io la faccio con tè e biscotti, non tanti naturalmente perché cerco di mangiare poco dato anche l'età, ma è che durante la giornata io non faccio altro che assaggiare, assaggiare, assaggiare, perché tutto quello che viene fatto durante il giorno, magari ci sono delle produzioni particolari, io le voglio sempre conoscere. E un mangiar sano oggi non impegna molto le tasche e soprattutto è semplice e facile. Un momento in cui il sapore e il gusto si svegliano per tutto il giorno. Questa è la colazione di Giuseppe Vicenzi, terza generazione presidente della Vicenzi Biscotti S.p.A., azienda dolciaria centenaria, specializzata nella produzione di pasticceria industriale dolce e salata. A distanza di oltre un secolo, l'attività di Matilde è rimasta saldamente in mano alla famiglia, rappresentata da oltre 40 anni proprio dal nipote Giuseppe, e presente oltre che sul mercato italiano, con il 30% del fatturato sui mercati esteri, in più di 100 paesi nel mondo, dall'Europa alla Russia, all'intero continente americano, al medio e lontano oriente, all'Australia. Il 1905 è l'anno del primo documento aziendale e a San Giovanni Lupatoto, un piccolo centro alle porte di Verona, Matilde Venturini, 39 anni e 4 figli ancora in tenera età, da poco vedova di Sante Vicenzi, decide di prendere in mano la gestione dell'attività familiare, un forno da pane e pasticceria. E alla vendita di generi alimentari affianca anche quella di dolci fatti in casa, tipici della tradizione pasticcera locale. Amaretti, savoiardi, maronati, nadalini, biscotti, sfogliatine, torti e budini. Ma prima di diventare una delle poche donne a guidare l'attività di famiglia, Matilde diventa la guida. Sostituisce gli occhi, le mani del marito. L'azienda nasce nel fine 800 da parte del nonno Sante, e che a un certo momento, essendo rimasto cieco, passa le mani alla Matilde, e da lì inizia la storia di Matilde. Io dichiaro 1905 perché, e non fine 800, perché volevo assolutamente essere supportato da un documento. Il documento più vecchio che io ho trovato dell'azienda parla di 1905, l'iscrizione della Camera di Commercio di Verona, altrimenti l'azienda nasce fine 800. All'inizio l'attività di famiglia è una panetteria, ma soprattutto una comunità legata alle radici, al paese e ai suoi abitanti. Mia nonna è nata col forno da pane, ma da lì nasce l'attività dolciaria, perché in quei tempi là le donne, le mamme, avevano bisogno di cuocere dei dolci che facevano in casa, per cui in casa non avevano un sistema di cottura valido, adeguato. C'era solo il focolaio, e col focolaio si cuoceva male il dolce, non abitualmente, ma ogni tanto portavano il dolce da cuocere al pistor, che pistor significa panettiere. È diventata la prima pasticceria e unica pasticceria del paese. La serietà con la quale mio padre si è inoltrato nel mondo del dolce, cioè della pasticceria, è data dal fatto che aveva un pasticcere, anche se era proprio all'inizio questa attività, però aveva un ottimo pasticcere. Difatti mia nonna mi diceva che era un pasticcere balordo, così la chiamava, perché lavorava quando aveva volontà, ma i dolci che faceva sin da allora erano assolutamente extra. E nonostante il potere d'acquisto che c'era allora, alla domenica, come usanza, si andava a mangiare le paste dalla Matilde. Alla fiera di Milano nel 1912, Angelo e Bepi, figli di Matilde, acquistano la prima macchina per biscotti siringati. Ma è sulla spinta del figlio Giuseppe che prende vita la vocazione imprenditoriale che accompagnerà Angelo nei lunghi anni alla guida dell'azienda. Quel tempi là mio padre è riuscito a comprare il primo forno da biscotti. Ero a Milano, mio padre mi viene a trovare e mi accompagna alla fiera di Milano, la prima fiera del dopoguerra. Allora la fiera di Milano era la fiera generale, non è una fiera specialistica come è adesso. E avendo visto la prima macchina da biscotti, io non volevo più staccarmi da sta macchina. perché volevo e convincere mio padre che si decidesse a fare questo benedetto passaggio da un lavoro prettamente da pasticcere artigiano a un qualche cosa di più industriale. Giuseppe, figlio di Angelo, dal 1950 prosegue l'attività semi-artigianale del padre e, affiancato dai fratelli Mario e Beppina, muove i primi passi verso l'industrializzazione. Nel secondo dopoguerra i prodotti oltrepassano il confine di Verona e si inizia a distribuire nelle città e province di Bolzano e di Trento. Mario si occupa della vendita e delle consegne. Giuseppe rimane in bottega, affiancando il padre e la sorella nella produzione, ma il suo ingresso in azienda nasce molto prima, anche da una passione per le vetrine delle pasticcerie milanesi. Correvo sempre volentieri in laboratorio a lavorare con mio papà a fare le paste. Siccome il tavolo di lavoro era alto, mi preparavano una cassettina vuota perché io ci dovevo salire sopra per lavorare la pasta sul tavolo della pasticceria. Da lì è nata nel 48 primo impegno diretto, perché essendo stato a scuola, non avendo combinato niente da scuola, mia madre mi ha detto: beh, allora vai da tua zia a Milano, vai là e impari qualche cosa, conoscenza di quello che è la partita doppia. E mia zia, che aveva un amico di famiglia che era un ragioniere, mi dava ogni tanto delle lezioni, e sono stato qua a Milano per, non so, 6, 8, 10 mesi. Sapere la passione che avevo io per il mio mestiere, partivo da via Stresa, andavo fino in galleria, piazza del Duomo, a piedi, andata e ritorno, perché andavo in su e vedevo tutte le pasticcerie di destra, venivo di ritorno e vedevo tutte le pasticcerie di sinistra. Ma la mia passione era guardare le vetrine delle pasticcerie. Per spiegare la ricetta di famiglia del passaggio generazionale e i messaggi tramandati di padre in figlio, Giuseppe Vicenzi racconta un aneddoto. La produzione non si fermava mai. Alla sera, dopo la cena, la frase che mi ricordo, che sarà un po' difficile che me la dimentichi: dato che disemmo il rosario, mettiti a incartare caramelle anche a te. Allora, per salvarsi, bisognava fare un po' di tutto. Alla sera non si andava a letto, soprattutto d'inverno, subito. Per cui dopo cena si liberava la tavola e si incartavano le caramelle, una a una, in attesa che arrivasse mio padre, che arrivava dalle visite della clientela, in mezzo alla nebbia d'inverno, arrivava magari anche alle 10 di sera. Volontà del fare, no? Ma fare cosa? No, qualsiasi cosa. Dolci. Classe 1932, tre figlie di cui due impegnate in azienda. Un'antica passione di famiglia per il basket che ha portato sia lui che il fratello Mario alla guida per quasi 30 anni della squadra locale, Giuseppe Vicenzi dirige l'azienda dal 1963. Nel 68 Giuseppe, già al timone da 5 anni, decide di imprimere una nuova svolta all'azienda con la prima linea meccanizzata dell'amaretto, per puntare tutto sulla specializzazione. Io devo scegliere un prodotto e su quello devo diventare primo. Il successo è immediato e Vicenzi decide di proseguire sulla strada della differenziazione, inserendo la produzione del savoiardo. Poi, negli anni 70, per primo in Europa, lavorata con il solo burro anziché con la margarina dei concorrenti, nasce la Mille Foglie d'Italia. Negli anni 80 e 90, nuove specialità: la sfoglia ripiena, la Mille Foglie, i pasticcini assortiti e le mini voglie. E ancora il coraggio mostrato nell'anno del centenario, il 2005, con l'acquisizione del ramo da forno di Parmalat e dei suoi più importanti marchi, come Mr. Day e Grisby. Racconta di conservare ancora oggi in cassaforte il libricino rosso con le 62 ricette della nonna, Giuseppe Vicenzi, e ribadisce che non c'è nulla di inventato nella storia e nella figura di Matilde. Ah, avete inventato la Matilde? No, la Matilde esisteva, era la nonna la Matilde, per cui noi non abbiamo inventato la Matilde, era la fondatrice di questa azienda che ha avuto sempre per passione far di buoni dolci, tutto lì. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.